partita per Bologna per cose sue personali, però ci ha lasciato le tessere del MIT. Chi si volesse tesserare più tardi quando facciamo il break, ce le ho io. 20 euro. Mezza tessera, 40 euro intera. Ok. Il gruppo. 19 euro, minimo mezzo. A proposito, sono stata vabbè, quando ce l'hai, essendo che anche io non si fate tanto male, cominciamo, Scusate un attimo, prima di iniziare questo workshop, io volevo fare solo un minuto una precisazione, perché tante cose mi è sfuggita. Allora, nel documento che noi abbiamo scritto, che avete visto e pubblicato sopra, ci sono due richieste legislative. Sostanzialmente ieri ci siamo fermati sulla prima, cioè quello del cambio sesso e nome senza l'obbligatorietà dell'intervento. Sulla seconda parte, personalmente ci è sfuggito, non abbiamo speso una parola. Ci abbiamo detto che si richiede un intervento legislativo affinché le persone che desiderano fare gli interventi, a prescindere dal cambio sesso, vogliono fare interventi, la terapia, eccetera, eccetera, abbiano sia il supporto del Servizio Sanitario Nazionale. Tutto questa seconda parte ovviamente tiene conto di una cosa, cioè del primo passaggio di quello che è un percorso, che è quello dove la persona può accedere, come può trovare questi tipi di supporti, ad esempio non so, l'endocrinologo, un'assistenza se desidera di uno psicologo o psicologi, anche per essere indirizzata, per sapersi muovere, tutto questo, quindi la presenza di quelli che sono i consultori che oggi sono in Italia e che con questa richiesta avrebbero anche un riconoscimento tipo legale, perché la 164 dell'82 non parla di chi è che si deve far carico di questo tipo di servizi. Mentre invece noi chiediamo che il legislatore li preveda, cioè ci sia un riconoscimento di tipo legale, in modo tale che queste associazioni che già hanno da anni danno questo tipo di servizi non avrebbero anche un riconoscimento giuridico, e dove la persona liberamente, se decide di fare questo tipo di percorso, quindi può rivolgersi. Quindi l'utilità di queste associazioni, che già ci sono, ne ho parlato, perché poi questa cosa venuta parlando ieri con Porpora fuori dall'assemblea, abbiamo parlato di queste cose, per cui ho detto, ma non l'ho detta, che bene che venga chiarita, perché sennò ce ne sono tante, c'è il MIT, c'è il PINC, c'è il Libellula, ma insomma ce ne sono tante in Italia che fanno questo tipo di servizi, però non c'è un riconoscimento di una legge, ci sono delle convenzioni che vengono fatte con le regioni, con le ASL, queste cose, invece così c'è proprio un riconoscimento, che quella persona si rivolge a queste associazioni, cioè ai consultori che hanno questo tipo di specificità, può essere non so, anche il miele, adesso non so se puoi avere questo tipo di cose, e da lì poi vengono indirizzate vari servizi che possono essere sia all'interno, per esempio il MIT c'ha un endocrinologo, psicologo, via discorrendo, che ti danno subito, oppure se non li hanno di loro ti possono mandare non so al San Camillo, al Saifield per dire. E quindi avendo un riconoscimento legale avrebbero un posizionamento giuridico chiaro, e in più non viaggerebbero più soltanto sulle convenzioni, ma avendoci il riconoscimento giuridico rientrano nel piano del Servizio Sanitario Nazionale. Credo che questa sia una cosa importante che andava un attimo esplicitata. È chiaro? Okay. Grazie. Cominciamo il workshop.